Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Made in Italy contro Made in France, una sfida infinita che non passa solo dai prodotti. Qual è la percezione nel mondo? Iniziamo da qui oggi per parlare di produzioni italiane di eccellenza e della loro valorizzazione. Di bellezza autentica contro stereotipi, ruoli e modelli predefiniti parleremo invece nel focus sui trend. In chiusura, come sempre, il nostro Italian Factor è il benessere, il nuovo fattore potenziale. Chiudiamo dunque il cerchio sulla valorizzazione del Made in Italy. La borsa della spesa. Non si può! Rischia di rovinare una carriera con una testata indecente, Zidane. Indecente, un'indecenza. Non l'ha visto, adesso lo tiro fuori. No, non l'ha visto, gliel'hanno detto. Rosso per Zidane che se ne va giustamente sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia. Era il 2006, Mondiale di calcio in Germania, uno degli episodi simbolo della storica rivalità tra Italia e Francia, rivalità non solo calcistica. Per restare allo sport, domani c'è un nuovo match per il Sei Nazioni di rugby, ma poi vino, cucina, moda, politica, musica, arte, dalla Gioconda in poi, insomma, la rivalità con i cugini d'Oltralpe è infinita. Con rebranding Made in Italy, Saatchi & Saatchi ha voluto analizzare la percezione del brand Italia nel mondo proprio attraverso la competizione Italia-Francia, con due punti d'osservazione, America e Cina, e i risultati riservano alcune sorprese, come ci spiega il numero uno in Italia dell'agenzia di pubblicità Giuseppe Cagliazza. Noi italiani siamo portati a credere che alcune caratteristiche del Made in Italy, quali la passione, l'amore che mettiamo nelle cose, il un gusto secolare che ci deriva dal vivere in un posto che è stato la culla della civiltà, si possano trasmettere facilmente sempre e ovunque nel mondo. Questa ricerca dimostra che in qualche modo non è proprio così e dimostra che invece questi punti di forza del Made in Italy devono essere in qualche modo perseguiti e comunicati in maniera molto più coerente per prodotto e per regione geografica. Infatti, dalla ricerca emerge che se in America possiamo dire siamo messi bene, la nostra brand equity è positiva, anche se le caratteristiche del nostro prodotto sono più improntate sulla qualità, sulla genuinità che non sulla passionalità o la sensualità, che sono elementi che poi generano premium price. In Cina la nostra equity di brand è sicuramente inferiore a quella francese e diciamo ci sono anche delle negatività. Il nostro Made in Italy è percepito in maniera un poco, diciamo, show off, a volte un po' eccessiva e non molto bilanciata. Secondo voi le indicazioni strategiche di marketing, di comunicazione, del resto questo voi fate, che possono emergere da questa ricerca, quali sono? Beh, noi pensiamo che qualsiasi cambiamento e qualsiasi rivoluzione cominci con una rivoluzione del linguaggio. E proprio da questo confronto con i cugini francesi abbiamo osservato due cose. Anzitutto che la Francia è l'unico paese dove il nome del loro paese, nella loro lingua originale, France, rimane anche nella lingua inglese. Quindi questo è un elemento di unicità. Quindi il Made in France, France si dice France sia in francese che in inglese. Non è il nostro caso. Non è il caso della Germania, della Cina, è sempre inglesizzato. Secondo elemento che osserviamo è che made vale per tutti. Quello che noi proponiamo, ed è anche il concetto con cui stiamo lavorando sia con alcune controparti istituzionali sia con alcuni clienti, è che se gli altri make, we create. Perché nel concetto della creazione c'è implicito il concetto di passione, di amore, di cura delle cose. Il Made in Italy dovrebbe fare un rebranding partendo anzitutto dal nome e quindi i prodotti italiani o i prodotti italiani che hanno un certo tipo di garanzie di qualità anziché Made in Italy dovrebbero essere Created in Italia. Difendono invece il primato italiano anche sul mercato cinese i dati di Alta Gamma. La fondazione punta sul Made in Italy come asset fondamentale di crescita per i brand di eccellenza anche nei mercati in cui si evidenziano quei compratori cosiddetti disaffezionati. Armando Branchini, vicepresidente di Alta Gamma. Quasi l'80% dei consumatori di gamma altissima nel mondo, i consumatori d'élite sono molto attenti al paese di origine del prodotto e fortunatamente l'Italia ha una leadership nel suo made in che è molto particolare. Abbiamo confrontato il valore del made in rispetto al made in Germany, made in Switzerland e made in France nei 10 paesi più importanti del mondo e vediamo che sia negli Stati Uniti che in Russia, che nel Regno Unito, che in Sud Corea, che in Giappone, che in Germania il made in Italy batte di gran lunga come percezione positiva il made in France, in Cina e in Brasile battiamo sempre. Ma tanto per dire, in Cina noi siamo considerati il Made in Italy vale numero uno per il 47%, il Made in France per il 38%, cioè la Francia c'è più vicina, o in Brasile il Made in Italy è il numero uno per il 34% dei brasiliani e delle brasiliane e il Made in France è secondo al 24%. Ovviamente il Made in Switzerland è il numero uno negli orologi, il Made in Germany è il numero uno nelle automobili, ma il Made in Italy è sempre primo nell'abbigliamento, negli accessori di moda, nella gioielleria. Vorrei commentare con lei un dato sui compratori cosiddetti disaffezionati, cioè quel milione circa che prevede di ridurre drasticamente la propria spesa nel lusso in futuro. Sono soprattutto italiani insieme a francesi, giapponesi e statunitensi. È un motivo di preoccupazione questo? Ma sa, il mercato è sempre a due vie, no? C'è chi entra e c'è chi esce, l'importante è che la somma algebrica sia sempre largamente positiva. In effetti noi prevediamo di avere un numero significativo di milioni di consumatori in più di qui al 2020. Il fatto che ci possano essere, che ci sia un fenomeno che stimiamo in un milione di consumatori nei mercati più maturi, che valutiamo appunto disaffezionati, è comunque un rapporto di somma algebrica per il nostro settore, non solo per le aziende italiane, evidentemente largamente positivo. Su Made in Italy e lusso vi segnalo l'inchiesta che abbiamo realizzato e che andrà in onda domani alle 8:15. La troverete poi sul sito di Radio 24 nella sezione reportage. Sempre a proposito di Made in Italy, ci piace molto il progetto già super cliccato Eccellenze in Digitale. Progetto promosso da Google per valorizzare il meglio della produzione italiana, anche quella più nascosta, e avvicinare le imprese alla rete e al suo grande potenziale economico e di export. Infine vogliamo segnalarvi l'iniziativa di Artex, il centro per l'artigianato artistico della Toscana, un sito e un'app per la ricerca di laboratori e botteghe nascoste. Artur 98, il direttore Alessandro Ricceri. Abbiamo la possibilità di dare ai turisti che ogni anno visitano la nostra regione la possibilità di vedere qualcosa in più, l'artigianato artistico e tradizionale nelle botteghe degli artigiani, quindi vedendo come si fa una pentola in rame o come si soffia un bicchiere in cristallo oppure come si realizza un pinocchio, quelli veri fatti in legno. E quindi questi 98 itinerari a piedi e in macchina offrono questa possibilità al visitatore, piccoli laboratori e piccole aziende che realizzano i manufatti più diversi, appunto con quelli che citavo prima, ma perché no il commesso in pietre dure, proprio di tradizione rinascimentale, oppure che so io la ceramica di Montelupo o l'alabastro di Volterra. Insomma, si ha la possibilità o di visitare le aziende, i piccoli artigiani là dove siamo, oppure si ha la possibilità di cercare per temi, il cristallo di Colle Valdelsa, l'alabastro di Volterra, la ceramica di Sesto Fiorentino. Insomma, le opportunità sono diverse. È ovviamente una dimensione commerciale, ma anche e soprattutto culturale in questo caso. Direi proprio difficile, l'obiettivo non è tanto quello di, è anche certo quello di far vendere anche gli artigiani, ma soprattutto è quello di poter vedere come i prodotti sono realizzati, come sono pensati e come sono realizzati dal vivo nelle botteghe artigiane. Insomma, per apprezzare una differenza di prezzo bisogna apprezzare anche il fatto che sono realizzati a mano, che sono fatte con tecniche, talvolta anche tecniche molto antiche, e quindi non si acquista più un prodotto, si acquista un'emozione, si acquista un pezzo della cultura della nostra nazione. Cambiamo argomento dagli artigiani che aprono nuove vetrine sul web agli editori, pensate, che sperimentano quelle su strada. Codice a barre di Cristina Lazzati. Il retail si ibrida, mixando formati e canali, ma non è l'unico. Anche gli editori non sono stati con le mani in mano. Infatti, una delle tendenze per il 2014 sarà proprio che molti editori, che ancora non lo hanno fatto, si proporranno in versione retail. Da tempo lo fa il mensile Monocle, che ha diffuso la sua rete di negozi fisici in tutte le più grandi città del mondo. Che cosa vende? Un lifestyle, Monocle per l'appunto, pelletteria, oggettistica, abbigliamento, selezionati presso produttori di nicchia di altissimo livello, dello stesso genere che collaboratori di Monocle scovano ogni mese per proporli ai loro lettori. Intanto GQ ha appena aperto a New York un barber shop con Fellow Barber. Ovviamente l'e-commerce è ancora più attraente per gli editori che lavorano già alla cremente per portare utenti sui loro siti. Così una famosa casa editrice americana, fortissima sui femminili, ha addirittura assunto il responsabile del retail online delle Gallerie Lafayette per avviare un'unità di business dedicata allo sviluppo del canale. Uno scambio? Forse sì. Se da un lato i clienti richiedono sempre più contenuti all'e-commerce, dall'altro vorrebbero che il lifestyle che sfogliano sulle riviste diventasse un pochino anche loro. E adesso basta solo un click. Avete mai provato a mettere a nudo le vostre insicurezze? Tutte le donne che vedo sono più magre, più carine. Da quando sono diventata mamma mi vedo bruttissima. Il fashion stylist Gok Wan insegnerà a tutte come spogliarsi delle proprie inibizioni. Vorrei che sfilassi il lingerie. È fantastico, non avrei mai immaginato che il mio corpo potesse essere così bello. Quello che sentite in sottofondo è il promo di Nude e Belle, il programma che promuove la bellezza allo stato naturale, per così dire. Essere e avere. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore. Il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza. E poi lo squallore disgraziato. È l'uomo miserabile. Focus sui trend. Con un omaggio al film di Paolo Sorrentino, candidato agli Oscar come miglior film straniero, introduciamo il focus sui trend di questa settimana. Parliamo di bellezza, appunto. La nostra riflessione, come sempre, ha a che fare con il mondo dei consumi, della comunicazione e dei fenomeni sociali. Il taglio che abbiamo scelto è quello della bellezza autentica contro stereotipi, ruoli e modelli definiti. Lo facciamo come sempre con i ricercatori di Future Concept Lab, Luisa Schiero, ben ritrovata. Grazie, ben ritrovati a voi, buon pomeriggio agli nostri ascoltatori. Impossibile parlare di bellezza autentica, Luisa, senza citare la campagna Dove, che compie tra l'altro ormai 10 anni. Sì, effettivamente questa azienda da sempre ha puntato le sue campagne su quest'idea di bellezza autentica. È un claim che si focalizza sull'unicità delle persone. Ciascuno di noi dovrebbe cercare di valorizzare e accettare quindi anche le proprie differenze per renderle proprio originali e quindi il punto di forza della propria bellezza. È molto interessante quest'ultima iniziativa che ormai nella rete ha già raggiunto una grandissima notorietà, un video tra l'altro l'altro di 8 minuti, quindi molto lungo, che si focalizza questa volta su un target un po' più nuovo rispetto a quello di Dove, e quindi gli adolescenti. Attraverso la collaborazione tra il Sundance Institute e Cinzia Wade, una documentarista di grande fama che ha già vinto molti premi rispetto a questa sua attenzione alle tematiche psicologiche anche sui ragazzi, è stato realizzato questo filmato che si intitola in maniera direi decisamente emblematica Selfie. Il selfie, sappiamo tutti, è la parola del 2013 e significa concretamente questi autoscatti che chiunque di noi si fa e poi posta sui nostri social network, da Facebook eccetera, quindi un tema molto rilevante rispetto ai modelli che i social network propongono rispetto alla bellezza. Ecco, il progetto che ha coinvolto degli studenti americani puntava proprio a far fotografare le ragazze e le loro madri mostrando il loro aspetto negativo, quello che della loro faccia piuttosto che del loro corpo piace meno. Ne è stata poi realizzata una mostra, lo scopo però è proprio questo, che anche la valorizzazione di quello che non ci piace, che poi invece magari per gli altri non è così, può essere apprezzato e far parte della nostra autenticità. E mi viene poi immediatamente in mente un altro caso molto interessante, è un prototipo di un artista e ricercatore americano che è Nicolai Lam, che ha realizzato una Barbie che ha esattamente le misure, diciamo medie, di un'adolescente 19enne americana. Vederla è davvero interessante perché insomma si nota quanto la Barbie che le nostre figlie, insomma le bambine molto anche giovani con cui giocano, sono decisamente completamente fuori dai normali canoni della normalità, e quindi lo scopo era proprio quello: normale e bello, sei bello come sei, era il claim di questo, anche in questo caso, questo progetto. Sempre sui nuclei generazionali, quindi altra fascia di persone sensibili rispetto alla relazione col corpo, quindi i senior, diciamo, mi piace molto anche ricordare American Apparel, che per la seconda volta utilizza come sua testimonia principale, questa volta per l'intimo, una modella di 62 anni, una donna, è stata un'attrice ed è ancora in grande forma, ma quello che colpisce in queste immagini è lo suo sguardo, la sua orgoglio di mostrare un corpo che chiaramente ha riporta e segni del tempo, ma che ancora ha voglia di essere vivo, vitale. Il fotoritocco è arrivato anche nelle fotocamere dei telefonini, come dire, tolgo le imperfezioni prima di postare la foto. A proposito di stereotipi, c'è molto lavoro da fare. Sì, certamente, però sono sempre di più anche i segnali da parte anche delle aziende nell'ambito del consumo, dei produttori, che cercano per esempio anche modelle che sfilano in passerella che siano il più possibile normali. È molto bello il caso di Ellie Mayday, una modella canadese di 25 anni, è sempre stata una modella curvy, si dice, cioè quindi queste modelle molto piene, con un corpo sicuramente che non rientra nei canoni appunto della magrezza più assoluta. Già ci piace dunque. Sì, assolutamente. Tra l'altro, purtroppo per lei si è ammalata di un cancro, tra l'altro veramente in modo molto, molto strano per una donna così giovane. Ha subito un'isterectomia e il suo corpo è cambiato, ha perso quei meravigliosi capelli biondi che aveva, e però ha continuato a posare per la casa di lingerie per cui fa la modella, che è Forever Yours, appunto una casa di moda canadese, che è proprio la scelta ancora proprio per dimostrare anche che davvero nel suo caso la bellezza è anche la forza d'animo. Su tua segnalazione, Luisa, gli ascoltatori troveranno sulla nostra pagina Facebook anche un video veramente strepitoso di Mimi Foundation, parliamone. Sì, è vero, ecco, in questo caso questa associazione belga ha realizzato un video incredibile, come dici tu, If Only for a Second è il titolo, quindi se soltanto per un attimo. Persone malate di cancro hanno accettato di posare per degli scatti fotografici in cui sono state truccate tenendo sempre rigorosamente gli occhi chiusi, quindi loro non avevano idea di cosa sarebbe successo al loro volto. E sono state truccate con delle parrucche piuttosto che trucchi particolarissimi che ne modificarono l'aspetto, consideriamo che erano quasi tutte calve, e il fotografo poi con gli scatti velocissimi gli ha fatto aprire gli occhi, e lo scatto è questo, cioè il fermare quell'istante in cui la persona è riuscita per un secondo a dimenticare la sua fatica di affrontare la malattia, vedendosi esteticamente di nuovo molto bella o molto particolare. particolare. Sì. C'è un'iniziativa importante anche in Italia a proposito di make-up e malattie oncologiche. È un'eccellenza italiana, la Forza del Sorriso, molto concretamente in molti ospedali distribuiti sul territorio italiano sono diversi professionisti, da make-up artist piuttosto che persone esperte nel dermatologhe, che si occupano di truccare piuttosto che curare le pelli delle persone, anche in questo caso sottoposto a malattie diciamo molto dure, per continuare a sentirsi belli anche durante questo periodo, accettare in qualche modo, cercare di riuscire ad accettare questo periodo di difficoltà. Tutti i progetti, le iniziative che abbiamo citato sulla bellezza autentica hanno molto a che fare, Luisa, con un cambio di prospettiva sul mondo femminile. Sì, assolutamente. Vorrei chiudere citando un film che si intitola Her di Spike Jazz, di cui si è parlato perché parla molto anche di solitudine digitale o comunque della relazione col mondo digitale, però mi piace un aspetto che il regista sottolinea nella relazione di quest'uomo con una voce di fatto femminile che è rappresentata di fatto da un programma, da un software. Quest'uomo di fatto, questa relazione intensa e appassionata che instaurerà con questa, chiamiamola tra virgolette, donna, dal mio punto di vista non è nient'altro che una proiezione del proprio lato femminile e accettazione di esso. Quindi da un certo punto di vista riuscire a cogliere tutti gli aspetti che fanno parte della nostra personalità, anche quelli che ci piacciono forse un po' meno, però è il primo passo per poi veramente poter esprimere e quindi far comprendere agli altri la nostra bellezza autentica. Italian Factor. Diamo subito il benvenuto, ci ha raggiunto in studio Francesco Morace, ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti. Questo è il momento di Italian Factor, il nostro viaggio alla ricerca dell'italianità perduta e il percorso che si propone di ispirare aziende e consumatori, ma anche istituzioni, associazioni, per comunicare e valorizzare le eccellenze del nostro Made in Italy. Francesco, il fattore potenziale di oggi. Il fattore potenziale di oggi è il benessere, ma inteso anche come essere bene, stare bene, quindi non è solo un tema salutistico, ma è sentirsi bene a proprio agio nel mondo e anche in azienda. E questa è una cosa che è stata sottolineata dal più grande futurologo, che è Toffler, che ha scritto da poco un libro che si chiama L'economia del benessere. I nostri tassi di longevità del resto lo testimoniano. L'Italia può far diventare questa dimensione di benessere una connotazione di prodotto? Questo è assolutamente non solo possibile, ma ci sono alcuni imprenditori illuminati che questa cosa l'hanno capita da alcuni anni. Faccio un unico esempio, ma molto significativo. Nerio Alessandri con Tecnogym ha addirittura inventato un termine che è il wellness, che mette insieme il well-being, quindi il benessere anglosassone, con il fitness, quindi con la performance. E quindi al di là della produzione di macchine per la ginnastica, nel suo caso, sia domestiche che nei luoghi, diciamo, della performance fisica, Alessandri ha capito che il benessere è qualità della vita e può essere reso migliore anche attraverso delle macchine ben pensate, progettate. E non a caso i latini inventarono l'espressione mens sana in corpore sano. Quindi la nostra idea di benessere fisico è sempre accompagnato anche da una qualità di pensiero. De Masi ha parlato per tanti anni di ozio creativo, no? Ecco, è qualcosa di molto simile. Prendersi il tempo per il pensiero e sentirsi rilassati e magari anche essere conviviali, come abbiamo raccontato in qualche puntata fa, ecco, diventa importante per proporre uno stile italiano nel saper fare e nel saper produrre e stare sul mercato. Grazie a Francesco Morace, grazie anche a Fabio Cantadori in regia. Tutte le foto, i video, i link come sempre sulla pagina Facebook di Essere e Avere, su quella di Radio 24 trovate la puntata da riascoltare e scaricare, in attesa di risentirci sabato prossimo come sempre alle 16:30. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.